abbiamo dimostrato la nostra preoccupazione, anche perché tra l'altro abbiamo corso una serie di processi, non uno, cioè sempre collegati con la strage di Bologna, ma una serie di processi, appello Cavallini che sta per iniziare, inizierà ad aprile, appello sui mandanti che inizierà probabilmente alla fine dell'anno, più ci sono dei processi relativi alle persone che sono state rinviate a giudizio per false testimonianze, false dichiarazioni, taglio, quelle cose lì, perciò credo che a questo punto, cioè, noi abbiamo tutto un quadro complessivo notevole. Queste dichiarazioni, questa voglia di fare questa commissione di inchiesta può essere un motivo per andare a toccare, a rivalutare, a rivedere processi che si sono già terminati, cioè che sono già terminati con sentenze passate in giudicato relative agli esecutori della strage, e non vorremmo che andassero a, diciamo così, inficiare o creare dei problemi ai processi che ci saranno, e pertanto noi la nostra preoccupazione l'abbiamo detta tutta, anche perché da parte dei personaggi di destra, dei personaggi di destra, degli avvocati, degli imputati, il tentativo di andare a creare false piste o cose di questo tipo è all'ordine del giorno, e non vorremmo che venisse fuori una nuova commissione Mitrokhin per rimpolpare vecchie piste palestinesi o cose di questo tipo. In questi quasi 43 anni di storia ci sono state diverse commissioni d'inchiesta su quanto è accaduto a Bologna? Ma dunque c'è stato la commissione stragi a suo tempo, che è andata ad affrontare Bologna, è stata molto cauta, anche se ha affrontato poi delitti di stragi e di altro, c'è sempre del filone fascista, ecco, però non è sfociata in grandi cose, ecco, per intendersi. Poi c'è stata la commissione Mitrokhin, che anche quella cercava di cambiare le carte in tavola per tutte le stragi italiane, ma alla fine la maggioranza non ha votato neanche la sua relazione di maggioranza, e credo che questo ci dia anche l'idea di una situazione molto confusa e molto incerta che è emersa. Ma comunque l'obiettivo è sempre quello di far uscire Bologna dalla strategia della tensione, la strage di Bologna, e fare in modo che i fascisti non c'entrino, cosa che nel momento in cui i processi si fanno diventa sempre più difficile, anche perché ci sono le connessioni con uomini dell'MSI che hanno cercato di proteggere gli esecutori o alcuni degli esecutori, i servizi segreti che si vede sono collegati con quelli che sono gli esecutori, i mandanti che sono, non sono assolutamente i palestinesi o piste internazionali, ma sono cose, chiamiamole, italiche, con delle persone ben precise, e vengono tutte dall'estrema destra.